Salve a tutti, io sono Jasmine, questo è Radio Big World e benvenuta ad una nuova puntata di Curiosità Animate dove vi parlo dei classici Disney, ma in realtà oggi parleremo di un altro film di animazione realizzato sempre dalla collaborazione fra Disney e Pixar, ovvero Alla ricerca di Nemo. Il lungometraggio è ambientato nell'oceano e vede infatti come protagonisti dei pesci, più precisamente Marlin e Nemo, due pesci pagliacci che sono padre e figlio. Marlin, dopo la morte della moglie, è un padre molto ansioso ed apprensivo nei confronti di Nemo, cosa che porta a molte discussioni. All'ultima sfuriata del padre, Nemo per sfida si inoltra in mare aperto, ma viene catturato da un subacqueo. Marlin cerca di inseguirlo, ma riesce solo a recuperare la mascherina persa dal sub. Inizia quindi la ricerca di Nemo, aiutato da Dory, un pesce chirurgo che soffre di memoria a breve termine, la quale ha avvistato il motoscafo del sub. Durante il loro viaggio e dopo essere fuggiti e aver incontrato svariati personaggi marini, Dory riesce a leggere l'indirizzo e il nome del sub sulla mascherina, scoprendo che si trova a Sydney. Partono quindi alla volta della corrente orientale australiana, anche qui con molte peripezie. Nel frattempo, Nemo è stato portato dal sub, ovvero un dentista, nell'acquario del suo studio, dove fa conoscenza con altri pesci, che stanno escogitando un piano per fuggire, ovvero quello di bloccare il filtro dell'acquario e approfittare del loro tempo fuori dall'acquario. Per questo piano si servono di Nemo, ricattandolo, il quale però fallisce ed è costretto ad essere adottato dall'agitata nipote del dentista. Nemo si finge morto per essere buttato nel water e riuscire a raggiungere il mare. Ma proprio in quel momento, grazie ad un pellicano, Dory e Marlin arrivano alla finestra e lo credono davvero morto. Il padre, sconsolato, decide di andarsene, lasciando Dory a Sydney. Ma proprio lì Dory ritrova Nemo e dopo essersi ricordato della situazione lo riporta dal padre, dove finalmente potranno riappacificarsi. La trama del film è principalmente ispirata al fatto che i pesci pagliaccio molto difficilmente abbandonano il loro anemone e che quindi l'idea del viaggio era un ottimo contrasto per sottolineare l'affetto padre-figlio. Inoltre il film è stato anche accusato di plagio dall'autore del libro Pierrot il pesce pagliaccio, il quale però perderà la causa nel 2002. Il film è uno dei più apprezzati fra quelli realizzati da Disney e Pixar, incassando nel mondo quasi $1 miliardo e vincendo l'Oscar per il miglior film d'animazione. Questo film cambierà le sorti per entrambe le aziende. Infatti da ora in poi la collaborazione fra Pixar e Disney sarà una delle più fruttuose e fondamentali per l'intera industria dell'animazione. Questa grandissima popolarità ha permesso alla Disney di rilasciare sequel, tra cui Alla ricerca di Dory, rilasciato nel 2016, quindi a quasi 13 anni di distanza dalla ricerca di Nemo, libri, videogiochi, merchandising, anche a discapito dell'ambiente. Infatti, anche se il messaggio del film era quello di apprezzare e rispettare le creature marine, e quindi contro il concetto dei pesci tropicali come animali da compagnia, moltissimi spettatori hanno deciso di adottare pesci pagliaccio senza le dovute precauzioni, causando un grave problema per la specie. Grazie per avermi seguito, io sono Jasmine, questo è Radio Big World e ci vediamo ad una prossima puntata di Curiosità Animate.